visita i luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Ragazzi, oggi è Spinosa, ve lo dico già. Non Spinosa... No, te lo dico già io. Se cominci così, oggi se cominci così non la finiamo, va bene? Calma. Tutte calma. Le volte. Oggi è Spinosa, oggi è difficile, oggi che fatica. E oggi di qua è tutto complicato. Allora, Riccardo, se è complicato, per favore, cambi mestiere. Fai altro. Vai a portare gli ortaggi la mattina, che le persone hanno bisogno di frutta, hanno bisogno di verdura. Non si può cominciare tutte le volte questa trasmissione Senti, così. Allora, va bene? Posso dire che forse tu hai bisogno di una vacanza? Sì o no, lo posso dire? Ma non ci vado in vacanza quest'anno, va bene? Perché non c'ho i soldi per andare in vacanza. Ah, ok. Ok? Comunque, tu stai esattamente mettendo in scena quello di cui parliamo oggi. Ormai stiamo convivendo da così tanto tempo, io e te, Alessandro, che siamo diventati parenti. E difatti sì. Oggi parliamo del tema, più che un luogo comune, è un tema bellissimo, nobile, alto, mi piace un sacco, parenti serpenti, ragazzi. In realtà, quindi, scusa, occhio. Io stavo anche portando la quota conflitto, cioè, siccome ci hanno detto i nostri ascoltatori che in questo programma manca il conflitto, noi tutte le volte cominceremo con un bel litigio, diciamo delle cose tipo, ah, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, così la gente dice, ah, guarda, oh, devo ascoltare questa trasmissione in cui litigano, poi comincia la trasmissione. Buonasera a tutti, grazie, adesso vorremmo parlare di rapporti interfamiliari. No, non faremo così, non faremo così, Beppe, non faremo così. Comunque la cosa bella è che tra due parenti che litigano c'è sempre il terzo che sta zitto perché vuole capire come va avanti la cosa, con chi schierarsi, ovvero Alessandro Longoni. Ciao Ale. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Pensate se ci sono invece 15 parenti e uno sta zitto. Mi è mai capitato di fare, non so, una cena di Natale o un cenone di qualsiasi festività in cui litigano tutti e voi state lì e scuotete la testa? È un'immagine, con i popcorn tipo. Sì, sì, anche sì, sì. Con i popcorn, è un'immagine molto bella. Parenti serpenti, guarda, è un calderone ribollente nella quale veramente finiremo per bruciarci. Scusa, Ale, tutti a Natale. Sì. C'è una parola tabù da tanti anni nella mia famiglia, ve la voglio mettere sul piatto, sapete sì, qual è? Bravo, cioè Berlusconi. No, vabbè, però ormai tuttora, andata, e lo so ragazzi, ancora? Lo so che sembra anacronismo puro, è anacronistico, però, sì. Cioè, se tu provi a tirar fuori Berlusconi si riaprono vecchie faide antiche, perché ma rimangono basta. Cioè sono rimaste dentro, proprio così, ci sono rimasti sotto, come con la ex, esatto, oppure come se dicessi fenici, tiri fuori i fenici, cioè si apre un mondo delle medie e delle elementari. Comunque la cosa che ci siamo chiesti preparando questa puntata è: qual è il momento in cui si rompe lo specchio, ovvero qual è il momento in cui scopri che i tuoi familiari, i tuoi genitori, i tuoi fratelli, i tuoi cugini, i tuoi zii, i tuoi nonni non sono così affidabili come credevi? O perché anche... tu ovviamente stai partendo dal presupposto che la famiglia è un disastro, è un coacervo di liti, chiaro, di questioni, di problematiche, per perché forza. C'è anche chi tra i nostri ascoltatori non la pensa così, se la gode, c'è anche, ha una bella c'è famiglia. Anche chi tra i nostri ascoltatori dice: ma la famiglia è una cosa bella, la nonna mi fa la torta, il papà mi paga gli studi, sì, cioè non lo perché so. Tu non hai mai sentito cosa si dicono i tuoi genitori quando tu non ci sei. Questo è il mio punto di partenza. Guarda, ho abbastanza immaginazione, quindi. Comunque, giusto per iniziare, abbiamo chiesto a voi ascoltatori attraverso il nostro numero WhatsApp di mandarci degli audio per dirci cosa ne pensate di questo tema di parenti serpenti. Ci ha risposto per primo Enrico. Una volta quella depravata di mia madre mi ha partorito, condannandomi a una vita di stenti, sofferenze. Però. E ad andare in bagno 3 volte al giorno, 4 per il piccolo e 1 per il grande, tutti i giorni. Intanto si scarica regolarmente. Esatto, già questo. Esatto, cioè, gli ha fatto un bel favore, perché tipo, io ho dei giorni in cui dovrei dire a mia madre: mia mamma, mai fatto, ma potevi farmi andare una volta al giorno, invece no, una volta ogni due. Comunque, cioè, qua è proprio la genesi che è il dramma, ce sì, l'ha con sua mamma proprio da quando è nato. Il problema nasce dall'anno zero, proprio dal momento zero. E l'accusa è quella più grande, cioè del figlio contro la madre. E del fatto di essere stato portato alla luce, cioè, uso il proprio... termine l'archetipo sostanzialmente, esatto, cioè, sì. Questo proprio... cioè non c'è altro. La nostra puntata potrebbe anche finire qua, qui, parenti sì. Serpenti chiusa qui, però invece abbiamo e anche invece, un altro audio, esatto, abbiamo un altro audio. Se mio padre voleva risparmiare non mi faceva, se mio padre si voleva godere i suoi soldi non faceva un figlio. Se tu fai un figlio gli devi dare tutto quello che hai. Vabbè, adesso sta al figlio pretendere tutti i soldi. Tutti, in automatico. Però sai che io su questo audio sono perfettamente d'accordo, perché io ho un tira e molla con i miei genitori. Sapete che il tema soldi poi è uno dei temi centrali per parenti serpenti. Con i miei genitori ho questo tira e molla, per cui ho chiesto un anticipo per fare il mutuo. E i miei mi hanno detto l'anno scorso, quando si poteva ancora girare così, mi hanno detto: no, guarda, non ti possiamo dare tot mila, ti possiamo dare solo 1.000 euro. Gli ho guardato e dico: 1.000 euro, cosa ci faccio? Ci compro un infisso forse. La cosa bella è che contemporaneamente, lo stesso anno, nel 2019, loro si sono fatti 4 viaggi. Uno di questi era in Grecia, uno in Scozia e uno a Zanzibar. E quanto costavano l'uno, scusa? Bravissimo. La sommatoria dava il mio anticipo per il mutuo. Che, scusami, tra l'altro tu gli hai chiesto un anticipo, neanche proprio un regalo per no, la li avrei restituiti. Ma va. Un prestito praticamente, un prestito senza interessi, diciamo, no? Un prestito senza interessi. Esattamente. Quindi io sostanzialmente ogni volta che mi dicono abbiamo fatto un viaggio, dico: ah, state sperperando la mia eredità. Ottimo, loro non mi dicono più nulla. Infatti, sul tema eredità è il tema della puntata, secondo me. Cioè, il fattore economico è quello su cui spesso si litiga nelle famiglie. Infatti, caro Riccardo, tu hai fratelli o sorelle? Sì, un fratello più grande. Bravissimo, questo è il vero problema. Cioè? Ce la fanno bene i figli unici in questo mondo, perché non devono litigare coi fratelli. E quindi cosa ci vuoi suggerire a me, a Riccardo, perché anch'io ho dei fratelli, li dobbiamo, non so, togliere di mezzo? Cioè, no. Però suggerisco, siccome il caro e vecchio detto dice: i parenti te li trovi, gli amici te li scegli, questo è il detto della puntata. Certo, questo è il detto. Noi quattro ci siamo un po' scelti, no? Noi quattro siamo un po' quattro fratelli, quindi diciamo, prima della fine di questa puntata io vi vorrei dire: siamo fratelli, prestatemi dei soldi. Ah, sempre lì vai. Io non ne ho, quindi esatto, forse devi cascare su di me. Però non vado a Zanzibar, capisci? Al massimo vai a Rogoredo. Però questa cosa qua che ci hai suggerito, per ribalto un po' il concetto, non è che forse siamo noi le pecore nere? Cioè, siamo sempre pronti a giudicare i nostri genitori, i nostri fratelli. Non è che forse siamo noi gli stronzi della famiglia? Provate a pensarci. Il nostro nichilismo non ci porterà da nessuna parte. Io faccio un mea culpa. Effettivamente sono il più stronzo di tutta la famiglia. Sono io quello che rompe più coglioni, sono effettivamente. Quindi lo ammetto, chiedo scusa, mi dispiace, cercherò di migliorare. Ma non te la puoi cavare così facilmente. Possiamo fare una citazione? Come dice il nostro, è stato anche ospite, forse tornerà anche molto presto, Antonio Rezza: la famiglia è l'anticamera dell'associazione delinquere. Allora, per parlare di questo luogo comune, parenti serpenti, è qui con noi Nadia Busato. Ciao Nadia! Ciao, buongiorno! Allora, Nadia è una scrittrice, è bresciana, il suo ultimo libro appena uscito si chiama Padania Blues, parla proprio di rapporti familiari, quindi casca a pennello, diciamo. E, Nadia, tu stai calmo perché hai detto una scrittrice bresciana con un certo dubbio, come se a Brescia non ci potessero essere scrittori, quindi... Cioè, ma figurati, il grande Aldo Busi è di Brescia, quindi insomma, figurati. Nadia, sei la pecora nera della famiglia? Ma assolutamente sì, sono anche quella snob, e vorrei aggiungere alla lista dei proverbi un proverbio che io amo moltissimo, che è russo e dice: la famiglia è come le patate, la parte migliore è sottoterra. Ah, è russo, i russi sono un popolo importante. Porco Giuda, dritti direi. Mamma mia, che bella. L'abbiamo presa pianissimo, no? Insomma, vi fa capire cosa penso io della famiglia e di quelli che parlano sempre benissimo della famiglia, poveri loro. Ma che rapporto hai tu con i tuoi genitori o con la tua famiglia, insomma? Beh, in questo momento devo dire abbastanza complicato, perché prima del lockdown stavo ristrutturando una casa e ovviamente, come dire, la pandemia globale ha fermato tutto, anche il mio cantiere. Quindi io sono a casa della mia mamma nel paesino in cui sono nata, insieme ai miei figli, da gennaio. Però si godono i nipoti, dai, glieli tiri dietro, no? Loro giocano con i nipoti. Diciamo che sono, voi avete detto, quello che a cena sta zitto, non che diciamo escludiamo, facciamo al netto di quelli che sono nell'angolo e mangiano in silenzio e finiscono tutto quello, sì, che c'è nella pentola, poi fanno anche la scarpetta col sugo e scappano silenziosamente. Io sono quella in rancoroso silenzio per la maggior parte della giornata. Rancoroso, cioè diciamo butti giù un sacco di rabbia e poi la sfoghi a un certo punto, però te capita? No, assolutamente non mi permetterei mai, mi sta venendo la gastrite. Nadia, quanto puoi ancora reggere in questa situazione, secondo te? Pochissimo, infatti sto, cioè tipo di giorno sono in cantiere, faccio il capocantiere quasi, e la notte lavoro e credo morirò, cioè la fase 2 è quella in cui le mamme muoiono, però esatto, io credo morirò un po' di più perché ogni giorno c'è un ostacolo insormontabile, è come un gioco a difficoltà crescente in cui però se muori muori davvero, ma voglio farcela prima di luglio entrare in questa casa nuova. Senti, entriamo un attimo nel tuo lavoro, quello di scrittrice. La famiglia nel mondo letterario e narrativo è di solito un tema centrale, ma soprattutto se è disastrata. Secondo te quali sono i temi familiari che interessano di più anche al lettore? Non so, la pressione psicologica, l'inadeguatezza, i soldi, l'eredità. Quali sono gli elementi narrativi più belli? Beh, naturalmente la famiglia, essendo il romanzo profondamente legato agli ultimi due secoli e alla nascita del mondo borghese, è un tema centrale perché la relazione dentro la famiglia dell'individuo è una relazione preponderante nella vita di ognuno di noi, è una delle basi sociali e spesso la relazione che tu hai nella famiglia si scontra con quello che succede poi con la società. Noi per esempio abbiamo questo enorme problema di individui cresciuti nelle famiglie come se fossero, diciamo, sono esaltati come se fossero dei Superman o delle Superwoman, poi escono nel mondo e non sanno accettare le frustrazioni anche minime. Io personalmente devo dire, insomma, poi in questo romanzo è specificatamente dedicato alle piccole comunità con famiglie molto chiuse e molto ipocrite, in cui si seppelliscono quintali di segreti, di polveri, di odi covati per roba anni. Che i tappeti hanno la gobba sostanzialmente. Sì, poi sì. Scusa, bastava chiedere ai vicini, perché in bresciano spesso si dice, cioè quando succede qualcosa di clamoroso in un'altra famiglia, c'è sempre uno nella famiglia dei vicini di casa che dice: sa tutto. Ma me il sere, ho sempre saputo io, ma figura, si vedeva, guarda che era così. Sì, certo, naturalmente, perché la famiglia poi è una, come dire, è come una stella in una galassia di altre famiglie e ci sono degli equilibri e dei codici che devono essere conservati, perché l'equilibrio delle comunità è fatto soprattutto da questo patto anche omertoso in un certo senso. Il paesino di cui parlo io, che assomiglia anche a quello in cui è cresciuto Beppe, a molti paesini della provincia, insomma qui di Brescia ma in generale della Padania, è un paesino dove fino a poco tempo fa i cognomi erano pochissimi perché ci si sposava tra cugini piuttosto Ottimo. Che mischiarsi con gente che arrivava da fuori o dalla città, perché poi c'è sempre il solito contrasto foresti. Tra la famiglia della provincia o della campagna e la famiglia della città. Puoi fare una distinzione antropologica di queste due famiglie? Beh, le famiglie che abitano in città oggi sono soprattutto famiglie monogenitoriali e devo dire che il ritratto e la narrazione che si fa della famiglia anche a livello legale nazionale è molto diversa dalla realtà, per fortuna che la realtà, come dire, è un po' più evoluta, diciamo così. Sì, forse anche le famiglie provinciali sono monogenitoriali, diciamo che in Italia in generale la monogenitorialità ti prego, questo è un pezzo che taglieremo e andrà in onda tutte le puntate. Vabbè, ragazzi, fino alla credo che chiusa. È la prima volta che in vita mia dico questa parola, quindi abbiate pazienza per favore, ok? Va bene. Insomma, non è molto diffuso fare molti figli in Italia, quindi secondo me è abbastanza trasversale, no? È difficilissimo, insomma io ne ho due e devo dire che è già abbastanza difficile così, non so. Cosa pensano i tuoi figli di te? Allora, i miei figli pensano che scrivo dei libri orribili e noiosissimi fin dal titolo, non vogliono mai leggere niente. Ma come, hai fatto anche della letteratura, come dire, non dico erotica, ma insomma abbastanza pepata, come fanno a trovarli noiosi? Beh, a quel punto ma non quelli forse ci non gliel'hai fatti leggere. A quel punto ancora non, cioè, non, diciamo, non allora gli hai fatto leggere quelli più noiosi, tra virgolette. sì, diciamo... Beh, c'è da dire, scusa, se gli hai fatto leggere il penultimo e non l'ultimo, che è Non sarò mai la brava moglie di nessuno, direi che comincia con un suicidio, non è il massimo della vita, dare a due bambini un libro sul suicidio. Però è una storia vera, quindi... È una storia verissima. Sì, ovviamente, devo dire, la parte sana è che mi prendono in giro, hanno ragione a fare del sarcasmo sulla mamma, e questo è un sintomo, come dire, da una parte di ammirazione e di stima, dall'altra anche di voglia di distacco. Quindi, come dire, avere un rapporto in qualche modo ostile verso la propria famiglia, verso i propri genitori, è sano. Per quello dicevo, vedi? Poveri quelli. Sì, scusami, questo è un tema che è uscito anche in redazione mentre ne parlavamo, perché si diceva: come mai lo zio, cioè spesso abbiamo dei rapporti che ai nostri genitori perdoniamo meno cose di quelle che perdoniamo magari al suocero, alla suocera, allo zio certo. No? Beh, ci viviamo molto meno. Insomma, come dire, il tempo passato insieme, la sopportazione dei difetti altrui, direi che ha un peso profondo. E poi i genitori sono quel modello di attaccamento che, se è insano o se ha delle tare, poi ci compromette nella vita anche per la gestione delle nostre relazioni. A un certo punto staccarci da quella cosa lì da lavorare gli psicologi. Infatti tu come ti sei, come dire, regolata con i tuoi figli? Cioè, nel senso, hai mai provato, guardando i tuoi figli, dire: voglio provare a non fare l'errore che fece mia madre 30 anni fa? A tutti i giorni, più volte al giorno, è il grande mantra. E riesci a farcela? Beh, o ne fai altri di errori? Ne faccio assolutamente altri, e rivendico il diritto di sbagliare con originalità e di piantare le mie lame un po' più in profondità, diciamo. Beh, così. Scusami, tra l'altro il grande motto dei genitori è: comunque fai, sbagli. Comunque, certo, fai, è un errore, giusto? Altro grande luogo comune, è vero. E comunque c'è un momento nella nostra vita, e credo che tutti i nostri ascoltatori saranno d'accordo, in cui scopri veramente cosa pensano i tuoi genitori di te. Succede anche nel libro Padania Blues. A un certo punto c'è il padre della protagonista che esplicita esattamente quello che pensa della figlia. A me è capitato perché i miei genitori, che hanno una certa età, non sanno mettere giù il telefono. Quindi quando finiamo una telefonata, loro abitano a Verona, io a Milano, finiamo una telefonata e io rimango lì quegli altri 5 minuti in cui sento mia madre che mi dà dello stronzo perché non ho chiamato. Però al telefono è stata tutta molto carina. Comunque io ho sempre preferito suo fratello, cioè per me suo fratello è quello bravo, c'è niente da fare. Però la cosa bella è che questa ipocrisia, e ha ragione Nadia, è meglio che venga stracciata. Cioè, secondo me cresci meglio se hai un genitore o uno zio o un parente che ti dice: guarda, sei un grandissimo figlio di puttana, fatelo dire, ma proprio con il cuore, perché così almeno crescerai sapendo che lo sei. O cerchi di alterare questa profezia, oppure ma ci Riccardo, stai dentro, ma tu non ci lo navighi. Sei, capito? Tu sei un orso dal lo cuore so. D'oro. Però dai, ragazzi, scusate, però stiamo dando un'immagine della famiglia veramente sempre negativa. Cioè, all'ascolto, a questo programma, c'è anche persone che non hanno problemi con la famiglia. Esisteranno pure delle persone che amano la famiglia profondamente, che non vedono l'ora di partecipare a qualsiasi cena, a qualsiasi ricevimento, a qualsiasi matrimonio. Le tombolate matrimonio, le vogliono fare matrimonio per fermi tutti, matrimonio. Quindi matrimonio sbagliati. Nadia, tema matrimonio, no, non siamo sbagliati. Tema matrimonio, nel libro c'è un episodio a cui io sono molto legata e di cui Beppe sicuramente ha sentito parlare, perché da noi è stata una leggenda pazzesca, di queste due famiglie riunite in matrimonio, dei loro figli cresciuti insieme nella, come dire, benedetti dalla vita oratoriale in comune, ma lei aveva la relazione con il fratello minorenne di lui. Meraviglioso. E durante il pranzo di matrimonio, insomma, presi da una passione incontenibile con l'alcol che scorre a fiumi, loro si appartano, rimangono chiusi dentro il bagno. E a un certo punto le famiglie, insomma, per stanarli, insomma, buttano giù la porta del bagno e poi distruggono il ristorante. Questa è una, come dire, fu un fatto di cronaca che girò, insomma, dalle nostre parti. Quindi tu è una relata refero, quindi riporti semplicemente quello che hai vissuto. Volevo introdurre questo audio perché tu sei scrittrice, quindi ti capiterà di scrivere, di mettere in parola anche quello che hai vissuto, ovviamente, e probabilmente qualche tuo parente si riconoscerà in qualcosa che hai scritto, forse, non lo so, non voglio buttarti in questa mischia. Una nostra ascoltatrice ci ha mandato questo audio che parla proprio di questo tema, degli scrittori che raccontano della propria vita in narrazione. Nella mia famiglia, da parte di mia mamma, c'è uno scrittore che ha scritto in particolare un libro che parlava della sua infanzia nelle campagne bresciane, e oltre a parlare di se stesso parla ovviamente dei suoi parenti e nomina la madre e la zia dicendo che molto probabilmente venivano da una situazione difficile, soffrivano di depressione, si vedeva che stavano male, solo che non volevano accettarlo perché erano bigotte, cose del genere. Adesso questo ha generato una catastrofe dentro la famiglia, perché ovviamente tutti quanti dicono no, ma come si è permesso di dire i fatti della famiglia, tutti quanti sanno le nostre cose, tutto il paese parla di noi, tutta la provincia, tutto il mondo parlava di loro nella loro testa, e niente, non gli andava affatto bene che lui avesse scritto queste cose nel libro, però lui è uno scrittore e le ha scritte lo stesso. Guarda il pudore, sì. Non vogliamo far sapere di essere tristi, depressi e non si può dire niente sulla famiglia, nessuno deve permettersi di dare un giudizio della propria famiglia all'esterno, perché questo intacca un'immagine perfetta. Perché i panni sporchi si lavano in famiglia. Ma non è neanche una questione di panno sporco, è che ha, come dire, rispetto alla tua famiglia, e questo secondo me è il grande salto, che non ha niente a che fare con l'amore per i propri genitori, ma il fatto di non riconoscere la famiglia come un tempio degli dèi, ma come un gruppo di persone adulte di cui tu sei parte come persona adulta, non come piccolino, non come nipotina da proteggere. Esatto, e anche a che può permettersi di fare i capricci in un certo senso, può essere sempre infantile, certo. Ma siete un gruppo di adulti e come tale affrontate le critiche, i conflitti e anche le problematiche in modo paritario. È un po' come Instagram oggi, se ci pensate, no? Dove sulle fotografie noi dobbiamo far vedere che abbiamo una vita grandiosa, quando poi in realtà dietro quelle fotografie ovviamente c'è disagio. Beh, Alessandro Mannucci, che è stato un nostro ospite, ha un profilo Instagram che mi deprime ogni volta che lo apro, perché ha sempre queste foto depressissime. No, io preferisco vedere la Ferragni se devo vedere qualcosa, cioè vedere l'opulenza. No, io voglio vedere lui sudato al parco trotter mentre corre. Ma tu consiglieresti ai tuoi figli di sposarsi e avere una famiglia, Nadia? Ah, io dico sempre ai miei figli che devono cercare di essere felici per quanto la vita consente di essere felici nella relazione con gli altri reale, quindi non cancellare le persone, ma il più possibile cercare di costruire rapporti sani e profondi che abbiano spazio anche per le divergenze e il conflitto. Chissà se lo capisco. Quanti anni hanno? Perché perché è già difficile per un adulto comprenderlo. Quanti anni hanno i tuoi figli? 9 e 10. Dai, sì, allora forse ce la possono fare. Sì, no, la grande l'anno scorso aveva 3 figli. Danzati. Usti, contemporaneamente? Contemporaneamente. Certo, perché uno era il grande amore della sua vita, ma lui aveva detto a un pigiama party che piuttosto che sposarla si sarebbe suicidato. Ottimo. Quindi gli ho suggerito di avere un piano B. Bravissima. E il piano B com'è? B era un carissimo amico che era anche carino, però lei ci stava tanto bene e mi ha detto, beh, questa è una buona strategia per avere delle relazioni durature, insomma divertirsi con il terzo partner. E il terzo era uno che a lei non piaceva tanto, però le prestava tutto. Ah, hai capito? Hai capito? Dai, è settata bene, un grande amore, un grande compagno e un grande finanziatore. Un grande finanziatore. Allora, a proposito di figli ingrati, l'ultimo audio che ci è arrivato dai nostri ascoltatori ci racconta come un figlio può prendersi gioco dei genitori. Ciao ragazzi, io settimana scorsa, mentre ero fuori a fare un giro in bicicletta, ho deciso di passare a salutare i miei. Quindi sono andato a casa loro, ho suonato il campanello e a quel punto mi è venuta la brillante idea di camuffare la voce e chiedere se avevano del tempo per parlare di Gesù. Sono stato praticamente cacciato via, non dico a mali parole, ma quasi. E a quel punto ho risuonato e ho minacciato di rigare la macchina sempre camuffando la voce. Ovviamente non mi hanno riconosciuto. Sono sceso in fretta e furia mia mamma e mio fratello e a quel punto mi sono dovuto togliere al volo caschetto, mascherina, occhiali perché non mi avevano riconosciuto e quindi rischiavo grosso. Sono io, fermi tutti, sono io. Sì, anche perché se era nella provincia di Brescia o di Verona rischiava veramente le schioppettate, ragazzi, ve lo dico. La cosa che mi fa ridere è che ha detto soltanto Gesù e questi sono i passi. Prova a capire. Scusate, vorrei parlarvi di Gesù e questi danno di matto, cioè c'è qualcosa che... Va bene, allora Nadia, ti ringraziamo per essere stata off topic qui con noi e, grazie a voi. Parenti serpenti, mi raccomando, il prossimo matrimonio a cui dovrai partecipare funerale, perché è l'altro grande momento in cui una famiglia si riunisce, fai la brava, stai sempre col tuo rancore nello stomaco in un angolo, Serena. So quando devo stare zitta. Va bene. Grazie mille, Nadia. Ciao. Grazie, ciao, Nadia. Buona ciao, giornata. Nadia. Allora, ricordiamo i contatti. Sì, ricordiamo i contatti. Siamo su Instagram, offtopic24. Trovate tutte le nostre puntate di Off Topic fuori dai luoghi comuni sulle principali piattaforme podcast. Quindi se usate Google Podcast, Spotify, iTunes, riascoltate le nostre puntate, scriveteci cosa ne pensate. Potete scriverci su Instagram o anche alla nostra mail, che è offtopic@radio24.it, se non sbaglio. Dopodiché abbiamo anche un canale Twitch che si chiama Off Topic 24 e abbiamo un canale Telegram, per chi avesse Telegram, si chiama Off Topic - Radio 24. Vi aspettiamo, scriveteci, fatevi vedere. Entrate, diteci, litigate con noi, sì. Noi scriviamo, ma perché facciamo sta roba del litigio, Beppe? Vuoi proprio litigare con me oggi? No, in realtà no, però ce lo chiedono e noi litighiamo. Cioè, nel senso, se l'ascoltatore ti chiede qualcosa, tu glielo dai. Guarda, se ne frega. Chiuderei così. Noi litighiamo perché ce lo chiede l'Europa. Bah, così. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.